con Lily Anstan, direttrice della 72esima edizione del Locarno Film Festival dal 7 al 17 agosto 2019. Ben trovata. Raccontiamo un po' come si caratterizzerà questa edizione. Beh, questa edizione si caratterizzerà, come nella lunga, lunghissima tradizione del Festival di Locarno, che giunge alla 72esima edizione, da una certa audacia, dai rischi che hanno preso i registi e le registe che abbiamo selezionati e che il festival accompagna e difende da sempre. Quante saranno le opere presentate quest'anno? Se facciamo il conto di tutti i film, sono 246, di cui 125 che rappresentano, diciamo, la selezione 2019 fatta con i film ricevuti e visionati dall'anno, collocati nelle sei sezioni della selezione dell'anno, che sono il concorso internazionale, il concorso Cinesti del Presente, che è dedicato ad opere prime, seconde e terze, il concorso di cinema d'essai o sperimentale Moving Ahead, il concorso dei Parti di Domani, che è per i film corti, e il Fuori Concorso. Quali sono, le cinematografie più vivaci, più presenti in questa edizione numero 72? Quest'anno c'è, non so perché, ma comunque una presenza europea forte. Per la Francia è stato un anno fortissimo, basta vedere il numero di film francesi inedito a Cannes quest'anno, e noi abbiamo io direi due film e mezzo in concorso internazionale, perché due film sono francesi francesi e uno è il nuovo film di Ravin Mirzayevich, che io considererei comunque più un film algerino, sia per la nazionalità del suo regista, ma soprattutto per il taglio politico del film e il suo argomento. Poi c'è una fortissima presenza del cinema portoghese, anche perché i film in concorso sono due, ma c'è anche un film svizzero che è stato realizzato da Basilda Cugna, che è un regista svizzero ma di origine portoghese, e c'è anche un altro film molto bello, Fuori Concorso, Prazer Camaradas. Quindi direi che questi sono, sì, sono, diciamo, sintomi un po' particolari, ecco. Ci sarà anche una forte presenza delle opere documentarie? Allora, delle opere documentarie, in realtà noi non abbiamo tanto ragionato in questi termini, per cui diciamo che, per esempio, in una sezione come Cinesti del Presente, per esempio, sono forse tre terzi, diciamo un terzo di finzione pura, pura, pura, cioè pura nel senso drammaturgia palesemente finzionale classica, cioè anche se i film non sono classici, però a livello sì, di drammaturgia, attori, sceneggiatura, eccetera. Un terzo documentari, beh, anche lì senza troppi dubbi, diciamo, e un terzo che noi abbiamo chiamato In Between, che sono queste opere sempre più importanti nel paesaggio del cinema contemporaneo, che sono, non si sa bene cosa, ecco, e che comunque per noi non è una distinzione importante, ecco. È prevista anche la presenza di molti autori e autrici? Sì, saranno quasi tutti presenti, mancano come sempre, beh, alcuni registi che per lo più stanno girando, ma direi che il 95% dei registi e delle registe saranno presenti. E con quest'anno, questa novità che anche per esempio i registi che presentano un cortometraggio, per esempio nella sezione Open Doors, che è la sezione dedicata all'Asia del Sud-Est, possono venire al festival perché possono essere alloggiati al Basecamp. Oh, rispetto a questa nuova direzione, quali sono gli elementi di continuità e anche quelli di innovazione che hai deciso? Di continuità direi innanzitutto la struttura generale della programmazione, che rimane la stessa. Continuità anche innanzitutto la linea editoriale del festival, che io ammiro tantissimo e che cerco di portare avanti con tutto il rispetto. Questa bellissima storia. Innovazioni sono, allora c'è questo Basecamp, che è un'azione molto pragmatica per accogliere più di 200 giovani creativi al festival. Questa ex caserma in una cittadina vicina a Locarno, che vengono o invitati tramite le loro scuole o che potevano iscriversi per un prezzo veramente simbolico, cioè 100 franchi per tutto il soggiorno con colazione a credito per vedere tutte le proiezioni. Questo è un modo di dare un accesso molto democratico ad una fascia d'età che finora alla quale era difficile accedere al festival per motivi finanziari. Poi c'è questa editorializzazione delle seconde serate in Piazza Grande, che noi abbiamo, alle quali noi abbiamo voluto dare una linea editoriale precisa, anche legata all'idea di coinvolgere un pubblico più giovane, trattandosi di proiezioni che iniziano tardi, verso la mezzanotte, per cui siamo partiti di questa bellissima parola di midnight, della mezzanotte, di tutto l'immaginario che porta con sé, e abbiamo creato questo slot delle Crazy Midnight, dove si potranno vedere delle opere abbastanza estreme. C'è la realtà virtuale, che prima non era presente al festival e che noi introduciamo soprattutto non come una sezione in sé, perché non si tratta di un progetto tecnofilo dove si farebbe per me sarebbe come fare un corso 16 mm, cioè non, per me non ha senso basarsi su il formato per considerare un'opera, sì. Bensì si tratta di essere solo in grado di considerare cosa fanno alcuni registi, alcuni artisti, sono pochissimi, però secondo me valeva comunque la pena poter dare attenzione a questo nuovo medium che stravolge totalmente due questioni maggiori del cinema, dell'arte cinematografica, che sono il punto di vista e lo spazio, per cui mi interessava poter eventualmente accogliere opere interessanti in questo merito. E poi direi che queste sono alcune delle novità più importanti. Bene. E allora ricordiamo la 72esima edizione del Locarno Film Festival dal 7 al 17 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Lily Anstan. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tantissimo, grazie.